per quando ti senti privato del bene maggiore che è per gli esseri umani, ossia la libertà. E a proposito di questi che non parlano, sproloquiano, ma non conoscono assolutamente il carcere, non conoscono proprio la condizione della detenzione. Che cos'è la detenzione, la carcerazione? C'è una bella persona, perlomeno, che è sempre stata molto attiva e molto ben vista, soprattutto degli aspetti, come dire, dalle persone più disastrate, più colpite dai problemi, perché si pensava, perlomeno così ha fatto per un lungo periodo, che metteva in luce le contraddizioni, le inadeguatezze che vive la società italiana, soprattutto intorno alle persone ben messe, ben palestrati, come quelli, diciamo, ai ricchi, ai potenti. Parlo di Milena Gabanelli, che invece stavolta su Corriere della Sera, l'altro ieri, il 2 di dicembre, ha fatto un articolo che dice così, ve lo leggo, pene pecuniarie, due punti, riscossi solo il 3%, e poi spiega, 6 miliardi di euro che l'Italia regala ai condannati, cioè ai carcerati. E l'ha scritto Milena Gabanelli e Simone Ravizza, il Corriere della Sera del 2 dicembre scorso. Che cosa va anche qui? Prigioniera di queste come dire, fantasmagorie che alcuni, pure come dire, perlomeno onesti inizialmente, analisti, diciamo, della realtà sociale, la semplificano troppo e, secondo, tirando fuori quattro dati senza capire in che situazione si collocano quei dati, pensano di fare, tirano fuori una valutazione. Eccola qui, ve la racconto. Dicono, nel 2018, dice la Gabanelli, le condanne a pene pecuniarie sono state circa 67.000, scusate, un quarto, 25% delle condanne complessive, le condanne a pene pecuniarie, per un totale di 973 milioni di euro. E poi domanda, quanto è riuscito a incassare lo Stato di questi 973 milioni di euro? Soltanto 14 milioni e mezzo di euro, una piccola cifra. E poi continua, nei primi 10 mesi del 2019 le pene pecuniarie ammontavano a 1,6 miliardi, quindi sono molto cresciute, poi vi spiegheremo perché. Sono stati riscossi soltanto 5 milioni. Questi dati ufficiali del Ministero della Giustizia, che gli fanno dire che finora lo Stato ha riscosso poco più del 3%. Com'è possibile? Si domanda lei. La risposta è semplicissima se uno conoscesse la realtà della, che cos'è l'atto del carcerare, tenere in carcere in attesa del processo, poi processo e condanna. Lei non lo sa. Intanto bisogna vedere perché aumentano tanto le condanne pecuniarie, visto che dal 2018 che sono state 66.900, quindi quasi 67.000, per un totale di 973 milioni di euro, adesso sono 1,6 miliardi, quindi una volta e mezza, sono aumentati di più di una volta e mezza da un anno a questi primi 10 mesi, quindi probabilmente ci sarà il raddoppio alla fine dell'anno. Perché sono aumentati così tanto? E questo è anche un altro elemento da ragionare. La magistratura continua a condannare, ovviamente aumenta tutto, aumentano le pene, aumentano le lunghezze, cioè di fatti la popolazione in carcere aumenta in continuazione, in crescendo, già è arrivato a un livello di sovraffollamento pesante, oltre 10.000 unità sono in più di quelle che ne conterrebbero le celle funzionali, le celle che esistono, insomma. Invece aumenta, questo a fronte di una diminuzione secca, forte, di tutti i reati, tutti, dal furto alla rapina. L'unica che non calano nemmeno di un punto sono i femminicidi, ma lì lo scopriamo facilmente, perché che è chiarissimo, il femminicidio sta dentro, e questo le compagne femministe l'hanno spiegato fino proprio a lo capiscono anche i sassi, sì, quindi chi non lo vuol capire, perché ha deciso di non capirlo, perché semplicemente ciò che porta al femminicidio è quel senso di proprietà verso un'altra persona, in genere dell'uomo verso la donna, di possesso, di sottomissione, di voler controllare tutto, che porta appunto a non accettare che per esempio una donna, una compagna dice me ne vado, oppure fa o cerca di fare una vita autonoma, eccetera. Quindi è una cosa molto vecchia che affonda nei millenni passati questo possesso, proprietà da parte del maschio verso la donna. Quindi non è, diciamo, non dipende molto dalle dinamiche economiche, che invece caratterizzano tutti gli altri reati, no? Il furto, la rapina, quelli sono un segnalatore del malessere delle persone. Comunque, diciamo, tutti i reati stanno calando, quindi in molti paesi infatti cala la popolazione detenuta, in Italia invece cresce. Inoltre crescono in maniera esponenziale le pene pecuniarie. Perché? Perché appunto, diciamo, noi che siamo in quest'area della realtà sociale, quella, diciamo, che si muove un po', che fa ogni tanto manifestazioni, sit-in, eccetera, ce ne siamo accorti da parecchio, nel senso, quando fai una manifestazione e per esempio non rispetti tutto quello che non so, esci fuori dal percorso contrattato con la questura di qualche metro, cose così stupide, non solo denunciano la persona responsabile di questa manifestazione o le persone, ma anche mettono, quindi in termini penali, mettono anche una multa, e così vale per tutti i reati. In genere si affianca alla condanna, mesi, giorni, eccetera, anche una multa. Inoltre ci sono le spese legali del processo. Il processo lo paga chi perde, siccome chi va a finire in carcere, i condannati l'hanno perso il processo, ovviamente, se no non sarebbero stati condannati. Chiaramente a loro viene addebitato anche il costo di tutte le spese processuali, dall'usciere che apre la porta, quello che pulisce, il giudice, il magistrato, il giudice all'altro, tutti questi, i carabinieri, cioè, e sono costi enormi. Ma che succede quando una persona viene arrestata? Peccato che persone che si ritengono così intelligenti come la Gabanelli e Ravizza non abbiano fatto uno sforzo per capirla. E non credo perché difettano di intelligenza, ma perché non vogliono dire le cose come stanno. Se una persona era arrestata, la prima cosa che fa, che cosa gli succede? Perde la libertà, ossia anche il lavoro, quindi il reddito. Una persona appena arrestata, portata via dalla realtà sociale che frequentava prima, viene buttata in carcere. Qui succede, diminuiscono il reddito, perché perde il lavoro, in alcuni casi viene licenziata, in altri viene soltanto sospesa in attesa della sentenza, però appunto reddito zero. In più aumentano i costi, l'avvocato bisogna pagarlo, le spese di quando uno va in carcere significa addossare ai familiari le spese di mantenimento, ti devono portare qualcosa da mangiare, da vestirti, scarpe, cose per non morire di freddo e di fame in carcere. Allora, in questa situazione, una persona che va a finire sotto le maglie della giustizia non è, in Italia non sono i grandi signori, l'abbiamo detto mille altre volte, quindi è inutile, non ce lo fate ripetere, per favore. Chi non crede che in Italia il carcere al 99,9% ci siano soltanto gli ultimi, le classi subalterne, le classi povere, come chiamatele come volete, è inutile che glielo ripetiamo, perché vuol dire che non gli è di qui gli entra, di qua gli esce, perché l'abbiamo detto tantissime volte, che anche qui la sedia che sta qui a fianco dice no, basta, lo so a memoria. In carcere non ci stanno i colletti bianchi, non ci stanno quelli che fanno frodi, falso in bilancio, corruzione, concussione, questi non ci stanno. Ce n'è una percentuale talmente bassa che è al di sotto dello 0, qualcosa per cento. Quindi non piange. Questa è una cartina molto italiana, no? Paese dove si dice molto corrotto, ma i corruttori e i corrotti non stanno, e i concussi e i corrotti non stanno in carcere. È un problema, chiedere a loro, non a noi. Cioè, è chiarissimo perché? Perché il carcere è di classe, lo è sempre stato e lo sarà sempre. In alcuni paesi come in Italia è più marcatamente di classe. Poi, dopo il ventennio berlusconiano, con tutte le ramificazioni che ha, come vedete, ancora una volta ci hanno la destra, questi cialtroni qua, no? Fanno i garantisti per gli amici loro, e colpiscono invece quelli che dicono mettili in galera e butta la chiave a quelli che non appartengono al loro giro di amici e di interessi, e invece garantismo totale per chi fa parte del loro giro di trafficanti. Per esempio, la legge peggiore che ha prodotto il ventennio berlusconiano è la legge Cirielli. Cirielli, questo personaggio dei Fratelli d'Italia, che francamente non è come fa quel gruppo lì per avere un consenso, questo è uno dei tanti misteri di queste che caratterizza questo paese, è quello che ha fatto una legge proprio particolare a favore dei più forti, dei più ricchi, dei più potenti, diminuendo la prescrizione, cioè facendo più facilmente finire un processo, un'accusa con la prescrizione, che sono le per i reati che appunto falso in bilancio, corruzione, per i reati dei colletti bianchi cosiddetti, mentre invece ha raddoppiato per i poveracci, per quelli che fanno un furto, e per la recidiva è diventato una ghigliottina, un massacratore per e considerate che la recidiva sono costretti a farla, cioè chi fa più di un reato, quelli che il piccolo furto, il piccolo spaccio, cioè quelli che fanno i piccoli reati sono costretti a farne, reiterarli, perché appunto uno non hanno svoltato. Invece il grande traffico, il grande impiccio, per esempio quello della Locked, per dirne una, con quello se gli andava liscio ci stavano a posto tutta la vita. Questo è un po' il carcere, colpisce i primi, non i secondi, ovviamente. Chi non è convinto che il carcere è di classe può pure andarsene così a buttarsi in una cloaca, perché non ha più senso che esista al mondo, anche perché questa cosa non la diciamo solo noi, la dicono tutti gli studiosi seri di questo argomento, cioè stiamo carcere. Bene, la Gabanelli continua quindi a far finta non conoscere questa realtà, dice: come mai non pagano i carcerati? Stanno a reddito zero i carcerati, cara signora, tranne quelle poche decine che appunto sono i colletti bianchi, ma non fanno il numero quelli. Quindi come possono? Allora poi fa tutta la spiega tutto, dice come pure una volta il meccanismo di, pensa che sia il meccanismo di riscossione di questo debito inceppato da qualche parte e quindi lo va a riscoprire. Dice una volta venne dato ad Equitalia la riscossione, che andava Equitalia, ricordate che levava i soldi pure ai morti di fame, e va bene, e poi questa passava all'Agenzia delle Entrate, ma anche tutto questo non ha funzionato, non può funzionare. Volete capire che la persona che è stata condannata, che sta in carcere, non ha una lira di reddito, un euro di reddito oggi, anzi sta a sovraccarico ai familiari, e quindi come fa a pagare? E difatti la legge, che sì, per quanto le leggi sono brutte, però le leggi per questi debiti di giustizia nei confronti dello Stato vanno a colpire il patrimonio. Se tu hai un patrimonio te lo levano, se tu hai un reddito altissimo ti levano una parte, ma se tu sei patrimonio se nulla tenente, come si dice, e c'hai un reddito che è al limite della sopravvivenza una volta uscito dal carcere, è ovvio che in quel caso lo Stato aspetta che ti cresce questo reddito, cosa che non avviene, e quindi i soldi non li pigliano. Il ragionamento è semplicissimo: se si fosse sforzata 30 secondi di ragionare, ma su queste cose non si può ragionare, bisogna cercare i grandi evasori, questo è l'obiettivo di questo governo, tutti colpiamo gli evasori, dove va la mazza? Sulla testa del carcerato. I carcerati, non pagando il loro debito con lo Stato, fanno andare male le finanze dello Stato. Questa è la grande scoperta della signora Milena Gabanelli, che evidentemente non ha più capacità intellettive. This one's called Rockaway Bass. Rock, rock, rock with beats. Rock, rock, rock with beats. Rock. Allora, 15:20, ancora andiamo avanti con le notizie. Mi sto accorgendo da un po' di tempo, da parecchio tempo, che sfogliando così giornali, riviste, le agenzie per cercare appunto le notizie sull'universo carcerario, che poi qui cerchiamo di commentare insieme, bene, mi accorgo che la gran parte di queste notizie attengono, se le volessimo dividere per categorie, alla demenzialità. E certo, perché quello abbiamo visto prima. Una persona, tra l'altro, di cui non si aspettava la Gabanelli fare un ragionamento così contorto e demenziale. E arriviamo a un altro, no? Questo è stato giorni e giorni sulla televisione, hanno parlato tutti. Quella persona che armata di un coltello ha colpito sul ponte il famoso London Bridge, ma più che i passanti, come dicono le agenzie, ha colpito in realtà quelli che stavano lavorando con lui e con altri detenuti per questi percorsi di reinserimento, no? Quelli si fanno in tutti i paesi, anche in Inghilterra si fanno ovviamente, e c'erano infatti due volontari e due esperti, diciamo, di questo percorso, e c'era questo ragazzo che poi è diventato l'accoltellatore ed altri, e gli stanno facendo appunto un percorso di reinserimento, quindi li portavano in giro per la città per far vedere il tipo di lavori da fare e far risocializzare. Quello è l'unico: se li tieni chiusi in gabbia non si desocializzano, non si risocializzano, questo lo sanno tutti. E quindi si va anche lì. Ora, questo è l'unico elemento che permette di giustificare ancora il carcere, perché per gli altri 90 esempi è da demolire subito, perché non funziona nulla il carcere. Questo percorso di riportare la gente appunto a imparare un lavoro, eccetera, eccetera, questo almeno ha un senso. Però dopo che questa persona, questo che stava era stato condannato, dopo un certo numero di anni gli hanno dato questo permesso lavorativo di andare in giro con equipe di tecnici per andare a imparare dei lavori, che poi sarebbero i lavori che faranno pure qui a Roma, quelli di pulire le strade, fare quei lavori abbastanza semplici, e che sempre più le città lo richiedono, perché stanno crollando perché le manutenzioni sono pressoché non fatte, costano, e quindi i comuni non le fanno, però questo poi porta a distruggere. Pensate a Roma, togliere le foglie di questi begli alberi che ci abbiamo, no? Togliere le foglie che vanno a intasare le fogne e che poi fanno allagare le strade, cioè è un lavoro semplicissimo, però non viene fatto perché il comune dice non ha soldi di pagare le persone. Allora tra un po' ne stanno già facendo le pratiche, prenderà il comune di Roma dei detenuti del carcere di Re Bibbia e gli farà fare questo lavoro. Sono lavori socialmente utili, così chiamati, che permettono di avviare la persona detenuta all'attività lavorativa. Apparentemente questi lavoratori, all'inizio accompagnati da un'equipe, vanno all'esterno, fanno quello che devono fare, puliscono i prati, le strade, i giardini, quello che gli viene assegnato di fare, poi la sera tornano in carcere. All'inizio vengono accompagnati per un periodo, poi quando vedono che funziona li lasciano soli. Questo è il reinserimento che sta in tutti i regolamenti carcerari, no? E allora, questo qui invece chiaramente cova qualcosa dentro. Un giorno ha preso sto coltello, ha colpito due di questi che stavano appunto in questa equipe con lui, e poi ha cominciato a colpire, anche a cercare dei colpi passanti. La polizia intervenuta, gli hanno sparato, hanno ammazzato. E va bene, è un fatto che succede. Casomai si tratterebbe di capire perché delle persone continuano a covare dentro un'impostazione non cambiabile, perché nonostante gli anni di carcere fatti, e l'aveva fatti secondo quelli che dicono le carte di chi ha seguito questa persona in carcere, nel modo più preciso, cioè si comportava bene, non aggrediva i secondini, cioè non faceva niente di strano, e stava facendo anche questo percorso insieme ad altri di reinserimento lavorativo. Però probabilmente appunto un odio verso questo tipo di società, queste nostre, che gli ha poi portato a fare questa cosa. ma invece di cercare questa cosa, subito si è scatenata anche lì l'imbecillità totale, no? A pieno raggio. Di dire partito da Boris Johnson, perché poveri inglesi, gli è capitato questo leader che è veramente, fa un po' il paio con Trump, no? Sono veramente persone che non si sa bene da dove sono usciti, sparano delle stupidaggini una presso l'altra proprio come le ciliegie, no? Una tira l'altra. E va bene, lui ha detto no, perché si danno questi permessi lavorativi, queste a quelli che hanno fatto cose gravi non bisogna darglieli, praticamente dicendo di voler smantellare i punti fondamentali della legge inglese. Poi infatti non lo faranno, perché è un problema, c'è anche nella Costituzione inglese come in quella italiana, come in tutte, il fatto del reinserimento, no? Il carcere serve come un passaggio temporaneo per reinserire la persona che ha trasgredito una legge a riportarlo dentro il consorzio sociale. Questo dicono le leggi e i regolamenti e anche le costituzioni. Poi ogni tanto però questi si inalberano, questi delle istituzioni che dovrebbero conoscere, ma invece c'è un'epoca di ignoranza mai vista nella storia dell'umanità, probabilmente, perlomeno a memoria nostra, insomma, non c'è mai stata. E io ha detto, quindi ha chiamato il ministro della giustizia, tutti i tecnici, cioè, metteteli al lavoro per evitare questa cosa. Domanda anche qui semplice, no? Il ragazzino di 5 anni è passato e dice, ma scusate caro Boris Johnson, ma questo qui, vabbè, l'ha fatto adesso, ma se anche gli facevi fare il carcere fino alla fine, tra qualche anno usciva, e l'avrebbe fatto quando usciva, anzi forse avendo libertà di movimento lo faceva pure più grosso, da se pigliava un camion e ammazzava 20 persone sul marciapiede. Non va bene, no, perché allora o dai l'ergastolo a tutti, anche chi ha rubato una mela, oppure è la testa vostra che non funziona, oppure diciamo che è il carcere che non funziona. Non è questa la sanzione che recupera le persone, no? Vabbè. Allora, 15:29, e siccome siamo nel senso, l'ho detta io questa butade, che così questo detto che gli uni sono un po' di scemi, troppi scemi, però è abbastanza poco intelligente sicuramente, sia la cosa di Boris Johnson sia quella di prima, cioè quello che dice togliamo i permessi ma poi dopo escono, perché non è che siano tutti 50 anni di galera, quindi. E se il problema non ti pone il problema del perché un ragazzo che è stato anni in carcere, buono, seguioso, eccetera, a un certo punto esce e vuole ammazzare la gente, quindi c'è dentro qualche problema che bisogna capirlo e eventualmente farci i conti. Tanto se non lo face uscire al permesso, quando a fine pena la fa anche più grossa. il massacro. Quindi è un problema che, vabbè, Boris Johnson continua a dire baggianate, le altre pure, so. Ma a proposito di, appunto, dice tu, uno, voi che ascoltate, mi sarebbe un sorriso, dice: ma questo dice che sono tutti malati di mente. No, per carità, io non dico questo, anzi non credo alla malattia mentale, però invece ci sta chi ci crede, e sono per esempio le associazioni psichiatriche. Ma loro ce l'hanno, dicono che i carcerati praticamente sono tutti matti. Vabbè, può essere pure, no? Dico, no, evidentemente il carcere non fa bene, questo, su questo trovano una porta aperta, però che diventino proprio matti, e traggono queste loro valutazioni anche loro dai dati. Però anche qui forse non si rendono conto che cos'è la detenzione. E qui mi viene in mente, quando leggo queste cose, sempre c'era uno tanti anni fa che andava tanto, come dire, aveva tanti fans, diciamo, ma non era un uomo di spettacolo, era una persona così, che diceva: chi progetta delle cose dovrebbe poi fare, per esempio, chi questo faceva una cosa, chi progetta le case popolari ci deve stare almeno 2 anni, chi progetta la cosa a partire dalle navi, no? Ci stavano questi grandi progettisti che facevano le cabine dove ci stavano dentro i marinai, e ovviamente poi i marinai si lamentavano per queste. Allora dice: vabbè, che se mise questa norma che dice: se vuoi fare il progettista delle cuccette dei marinai delle navi, ci dai puoi stare per 2 anni, se vuoi fare il grande progetto delle prigioni poi ci stai 2 anni, se vuoi fare la casa popolare ci stai 2 anni, perché così ti rendi conto di quello che progetti, non che la fai sperimentare ad altre persone. Era un ragionamento che trovava molto accordo, poi chiaramente il mondo va avanti per altro verso, non verso il buon senso. E vabbè, quindi dicono che, quindi gli psichiatri dicono che in carcere siamo tutti, io ci sono passato, quindi siamo tutti matti, perché il dato lo prendono dall'uso dei sedativi. Perfetto. Nelle carceri si espande a macchia d'olio, dicono così da un loro messaggio di questa associazione psichiatrica, la dipendenza da sedativi, da ansiolitici e benzodiazepine, che creano più dipendenza del metadone. Il metadone è quello che, sapete, si dà alle persone che entrano come tossicodipendenti in carcere, e per a scalare gli serve il metadone, così non si può interrompere il botto, se non va una rota, e per scalare. Sono una pioggia di pillole colorate che si riversa tutti i giorni sui detenuti italiani. Una abusa di psicofarmaci un detenuto su 2, quindi il 50%, dicono loro, qualcosa di più. La gran parte di questi farmaci, di queste pillole colorate prescritte dai medici, quindi non è che le vanno a rubare in infermeria, prescritte dai medici e portate lì dagli infermieri, di distribuire cella per cella agli infermieri, sono la gran parte di questi pillole dispensate, sono circa la metà sono psicofarmaci, dicono, e quindi probabilmente è vero. Però da qui trarre il fatto che siamo malati di mente, forse c'è qualcuno che o ha piacere di venderli o ha piacere di darli per tenere la popolazione detenuta sedata, cioè tranquilla, che sta sul letto, sulla branda e dorme pressoché tutto il giorno. E poi veniamo, poi ci danno anche dei dati interessanti, ci dicono questa associazione degli psichiatri che il 4% dei detenuti è affetto da disturbi psicotici, l'1%, mentre la popolazione fuori, i 60 milioni di tutta la popolazione italiana, è soltanto l'1%, quindi 4 volte di più. Poi la depressione colpisce il 10% delle persone recluse, e mentre il 65% delle persone recluse convive con un disturbo della personalità. Questo ci raccontano. Poi ci dicono che la gran parte della popolazione detenuta soffre di disturbo da stress post-traumatico. Ora, io non sono un medico, non so, però quando c'è la parola traumatico, qualcosa che è post-traumatico vuol dire successivo a un trauma, che è una botta, insomma, che può essere materiale o psichica, però è una grossa botta. Cioè, tutto questo ragionamento, che lo prendiamo con le pinze, però insomma va bene, uno utilizza tutti i saperi che ci stanno in questa società, anche non proprio egregi a mio modesto parere, però insomma, e lo hanno fatto questo progetto che si chiama Insieme trattino carcere e salute mentale, in cui danno tutte queste cose. È partito nel 2016, sta cercando di dare risposta all'isolamento e allo shock che la detenzione può veicolare nella persona, facendo esplodere o aggravando la malattia mentale. Nelle carceri il problema è molto delicato, dicono questi fautori di questo progetto, cioè sono quelli della Società Italiana di Psichiatria, e sicuramente il tasso di disturbi psichici è molto elevato, ma è anche legato a disturbi che non hanno influenza sulla commissione del reato, sono avvenuti successivamente. Quindi questi dicono quello che praticamente in carcere c'entrano sani i detenuti, anche perché se avessero un disturbo mentale in fase, in sede processuale, vengono passati in un'altra parte, no? Entrano sani, ma in carcere avviene e contraggono queste varie cose, no? Disturbi psicotici, depressione, disturbi di vario tipo. Bene, male, ma se fosse così, è così, non voglio mettere in discussione il sapere, diciamo, secolare di questi grandi medici psichiatrici. Se fosse così, vuol dire che lo Stato italiano, che come dire, da queste Stato democratico, Stato di diritto, insomma, lo Stato del popolo, tutte queste belle parole, in realtà ha delle strutture, delle istituzioni, dei dispositivi, cioè il carcere, che fa diventare le persone, entrano sane, escono matte. Questo dicono, detti in soldoni, pertanto per capirci. Questi signori della Società Italiana di Psichiatria dicono queste cose qui. Entrano sani, infatti dicono, non è che questo disturbo l'avevano al momento di commettere il reato, gli è subentrato dopo, cioè dove? In carcere. Allora, ecco, fare questi comunicati e poi andare via, andare a spasso al cinema, no, non va bene. Cioè, se siete convinti di questa cosa qui, dovete iniziare una battaglia per dire lo Stato italiano è criminale, perché mantiene una istituzione. Il carcere non è una cosa privata che sta lì per caso, è un'istituzione centrale del sistema penale italiano, che è un'istituzione centrale della società italiana. Lo Stato si regge, le sue leggi, le sue norme, le sue regole, i suoi principi si reggono con la spada, no? Ricordate il vecchio, la legge e la spada, perché la legge viene fatta rispettare dal sistema repressivo, cioè tu non rispetti la legge, io ti reprimo, al cui centro c'è il sistema penale, ossia il codice penale, che ha come sua opera principale il carcere. Quindi tutto ruota insieme intorno a questo sistema in cui ci sono le leggi e il carcere per farle rispettare. Allora, tutto questo baldacchino produce i pazzi, i malati di mente. Non è un'associazione criminale, quindi lo Stato, lo dicono i psichiatri, lo dico io, quindi dovrebbero battersi, vorrebbero trovare anche degli alleati. Per esempio, io vorrei uno di loro, di portare lo Stato italiano, ma anche gli altri, a un processo tipo quello di Norimberga. Perché si dice, voi cari, io le prese di Norimberga, sì, il processo con cui dopo il secondo conflitto mondiale vengono processati tutti i leader e dirigenti della Germania nazista, perché facevano quel po' di danno, di massacro, l'olocausto, il massacro nei campi di sterminio, hanno fatto morire milioni di ebrei, di rom, di omosessuali, cioè di tantissime persone. Quindi giustamente sono stati processati, dicendo che molti se la cavano, dicendo, ma io ubbidivo gli ordini. No, tu gli ubbidi, tu intanto non ubbidivi gli ordini, ma ne eri pure consapevole. Comunque sia, se uno ti dà l'ordine di andare a massacrare dei ragazzini o delle ragazzine, tu non ci devi andare, no? Ecco, per cui mai, l'obbedire è un peccato, è una brutta cosa. Obbedire senza mettere in discussione il comando è una cosa schifosa, abietta. È l'elemento centrale dell'abiezione. Ubbidire uguale abiezione. Guardate, questa cosa la disse un prete, ricordate, no? E poi anche tutti gli altri, però anche un prete l'ha detta. E l'obbedienza non è più una virtù, Don Milani, ricordate, sì? Bene, non è mai una virtù se porta questi risultati. Tu devi, l'essere umano singolo, meglio in collettivo, ma anche se si trova singolo, dice no, quest'ordine che mi hai dato non lo eseguo perché porta a massacri. Per esempio quello scemo che ha premuto quel pulsante che stava sulle Nola Gay, no? L'aereo che ha sganciato l'atomica su Hiroshima, poteva pure dire no, non ci sarebbe andato un altro, va bene, però insomma poi non può dire ma io ho dei disturbi mentali, ho capito, tu sei una carogna, punto e basta, perché hai obbedito, ma io ho obbedito, e infatti non bisogna obbedire, se si smettesse di obbedire probabilmente non ci sarebbero più guerre, non ci sarebbero più massacri in giro per il mondo, ma a parte questo, quindi loro hanno detto questa cosa, ci credono? Non ci credono? Gli domandiamo noi a loro, perché se ci credete non vi dovete fermare qui, dovete portare lo Stato italiano sul banco degli accusati e far chiudere immediatamente le carceri, perché se sono strutture che fanno diventare la gente da sana a matta e non lo possiamo accettare. Vi pare che una società che ha i suoi fini nella democrazia, nella libertà, nel diritto, fa queste porcherie? No, ovviamente. Invece loro hanno detto sta cosa e se ne vanno. Va bene, questo è l'altro punto che vi volevo mettere, perché qui tutti sparano numeri, dati, questa è la società del dato, poi dopo nessuno, come quelli che si snocciolano i dati sul carcere, no? Aumenti, si aumenta in perché aumentano i carceri? Ve l'abbiamo detto, perché aumentano le persone in carcere? Allora, i motivi, eccoli qua. All'inizio abbiamo aperto col fatto diminuiscono i reati ma aumentano le persone in carcere, quindi i condannati, le persone condannate, perché? Ecco, qualcuno ha cercato i motivi. Perché dei conflitti interpersonali che prima rimanevano legati a un fatto sociale, no? Quindi trovavano soluzioni empiriche, concrete, diciamo, del piccolo gruppo, all'interno del gruppo dove si era sviluppata questa controversia interpersonale, oggi passano per una struttura dello Stato, cioè vai direttamente alla polizia. Poi portiamo qualche esempio che vi fa ridere. La giustizia statale e la prigione, questi due elementi che sono il fulcro di questa società, piaccia o non piaccia, non vi inventate storie che qui. La giustizia statale e la prigione sono il fulcro di questa società. Porta a far diventare, cioè la giustizia statale e la prigione entrano anche non solo in quei conflitti interpersonali che prima venivano risolti nella comunità dove si erano verificati, ma anche in quelle infrazioni che non producono vittime, che non fanno male a nessuno. Per esempio, per dirne uno, l'oltraggio alla bandiera. No. Ci fu un periodo sempre nel famoso e disastrato ventennale berlusconiano che ci ha massacrato l'Italia, ha fatto perdere miliardi di punti sul terreno della civiltà. Ricordate, venne fuori una polemica, chi segue un po' il gioco del calcio, perché in una competizione internazionale c'era sempre o campionati europei o mondiali oppure amichevoli internazionali, le due squadre si mettono lì, sono attenti, sono comunque ferme e se gli altoparlanti danno le linee nazionali delle due squadre in campo, è una stupidaggine perché il gioco del calcio è nato al di là e fuori delle nazioni, no? Poi dopo invece nel periodo, diciamo, del Novecento fascista, cioè a metà del Novecento, quando mezza Europa era fascista, si sono inventati il torneo per nazioni con gagliardetti, bandieri, nazionali, eccetera. Mentre invece il gioco del pallone è un gioco di equipe, di squadre, no? Di club, di gruppi di amici che si mettono insieme. Vabbè. Comunque hanno fatto sta cosa e i giocatori stanno lì buoni fermi ad ascoltare i nazionali. Quel governo, non mi ricordo se fu lo stesso Berlusconi o questi della Lega o questi di Forza Italia, stanno tutti e tre al governo, cominciano a lanciare sui loro giornali ma questi non si frega niente, l'inno nazionale, questi giocatori pure pigliano un sacco di soldi perché vogliamo che cantino anche loro. Quando c'è l'innazionale italiano loro devono partecipare e cantare, la gente deve vedere questo questa pantomima patriottica, e tanto fecero, tanto hanno fatto, tanto hanno detto, poi il terrore questi li perde, no, di non andare più in nazionale eccetera, addirittura minacciarono di mandare via dalla squadra chi non cantava, così adesso cantano, poi perlomeno muovono le labbra perché probabilmente manco sanno, ma giustamente non gli andava di cantarlo, però poi si sono piegati. e nessuno ha detto niente. Poi è finito il governo Berlusconi, ma il tutto rimane uguale, perché quelle nefandesse che ha fatto quel ventennio orribile, uguale all'altro ventennio, in qualche caso forse pure peggio, vedendo i risultati oggi, anzi sicuramente ha fatto un peggio, a parte la guerra, però questo che ha fatto, sta facendo, ha fatto l'ascito di quel ventennio berlusconiano è molto peggiore di quell'altro, comunque si lega poi a quello, c'ha molti punti in comune. Ebbene, ha lasciato queste cose e nessuno torna indietro su quel, perché devono cantare, perché dei giocatori di pallone il cui loro interesse, il loro piacere, la loro voglia di giocare è quella di giocare a pallone, devono cantare l'inno nazionale. Vabbè, chiusa questa storia qua. Diciamo che il motivo, stavamo parlando dei motivi che a fianco della diminuzione dei reati hanno fatto aumentare le presenze in carcere e quindi le persone condannate, perché appunto i conflitti interpersonali, prima che finivano nel contesto, adesso diventano cose di Stato. Quindi, al di là della chiacchiera che lo Stato si dimagrisce perché non interviene più sull'economia, sulle scelte economiche lasciate alle multinazionali, ma sempre più si interessa della vita dei cittadini e sempre più li controlla, sempre più si espande, entra negli interstizi, entra nella loro vita personale. Pure l'uso degli stupefacenti non fa male a nessuno, casomai il consumo di stupefacenti, se fa male, fa male a chi fuma, a chi se li prende, non disturba altra gente. Invece vengono puniti anche questi perché si fanno male da soli. Questa cosa pure andrebbe capita sul piano dei principi, no? Che principio è? Che se io mi taglio un braccio, mi metto pure in galera. In carcere è così, in carcere gli atti di autolesionismo vengono puniti perché tu stai in carcere e hai l'obbligo di mantenere pulito il tuo corpo e la tua cella. Se tieni quindi la cella sporca, oppure il tuo corpo non pulito a dovere o addirittura con delle ferite, ti prendi altre sanzioni disciplinari. L'altro punto è l'abbassamento della soglia di tolleranza di pratiche prima ignorate dalla legge. Ci sono alcune pratiche che prima la legge non metteva, lasciava così al libero arbitrio delle persone, che anche questo si poi vedevano nelle comunità di vita, venivano così sanzionate a paro con un altro tipo di sanzione, vengono prese in carico dalla legge che colpisce per imprevi. Cambiamento per il terzo è il cambiamento della gerarchia dei disordini, che prima, fino a qualche anno fa, e questo sarebbe il caso che qualcuno indaga, che tutti voi e tutte voi ci ragionaste, tutti insieme ci dovremmo ragionare, che il furto e la rapina, che sono i reati sempre più diffusi, e vengono quelli più puniti, questi qui vengono con la recidiva, si trova una persona che ruba per 3 volte di seguito una mela, si trova una pena di quasi 10 anni, perché con la recidiva fa scattare la moltiplicazione, non dei pani e dei pesci ma degli anni di galera. Ebbene, la rapina e il furto sono ancora pesantemente castigati, mentre invece la frode fiscale è molto tollerata. Difatti si stanno sviluppando le frodi fiscali e soprattutto quelle in digitale, in internet. Le frodi in internet stanno schizzando in alto, sono tantissime, mentre invece le rapine fisiche, no, i furti stanno diminuendo. E poi c'è un elemento che chiama in causa i media, i giornali, i media di tutti i tipi, la drammatizzazione delle situazioni, che è un non da oggi, considerate, ne parlava pure Debord quando scrisse diversi decenni fa quel suo meraviglioso libro La società dello spettacolo, che tra l'altro ci ha preso in pieno, perché quello è, succede, tutto avviene in funzione dello spettacolo. E quindi la drammatizzazione, quando si parla dei fatti di cronaca soprattutto, i giornali, i media, le televisioni drammatizzano quello che è successo, in modo che cioè esaltando, e poi alla gente fa scattare, oddio, cioè, siamo nel panico, c'è un gran disastro. Tutti si sentono più spaventati, in preda a paure, quella che si chiama la paura percepita è molto più della paura reale. cioè una persona, secondo delle ricerche fatte bene, oggi, per esempio a Roma, nelle grandi città, ma ovunque in Italia, corre un rischio di essere aggredita per rapina, per furto, o anche perché uno gli vomenà in Italia, con un tot indice, chiamiamolo 10. Bene, qualche decennio fa questo 10 era 50, quindi è diminuito di 5 volte il rischio di essere aggrediti. Questi dati, ma la percezione invece è, oggi hanno molto più paura di 50 anni fa le persone. Considerate una cosa, per esempio l'autostop, vi ricordate, noi che abbiamo qualche età, quanto ci abbiamo viaggiato per tutta Europa con l'autostop? Abbiamo usata facendo così col pollice, e tanti si fermavano a darci il passaggio. Quando c'eravamo nella macchina si fermavamo a ogni percorso, che a chiunque trovavamo che aveva, se avevamo un posto in macchina raccoglievamo chi ne aveva bisogno. Andata. Adesso non lo fa più nessuno. Non perché sia vietato dalle norme, io domando in giro ogni tanto, tutti hanno paura di raccogliere, dice, ma chi la conosce quella persona? Non la raccoglierei mai una persona sconosciuta, è perché può essere chissà che, la Madonna, cioè, capite come stanno messi le paure percepite, nonostante che gli atti di aggressione siano fortemente proprio abbattuti, non ci sono più. Roma è tornata ad essere la città della vecchia zia, come la chiamava una volta gli altri romani italiani che stavano a Brooklyno, cioè in quella periferia di New York, dove invece ne avvenivano e come. Vabbè, quindi è la situazione, questa è la realtà. E ci prendiamo l'ultima pausa, poi affrontiamo l'ultima domanda di un certo tipo. Allora, su questo bel applauso iniziamo con l'ultima chicca che dobbiamo raccontarvi. La domanda è questa, teniamola presente da qui fino al 31 che andiamo sotto Re Bibbia, 31 dicembre, quindi da qui a un mese. C'è corrispondenza tra delitto e il suo castigo? Grosso punto interrogativo. Utilizziamo queste due parole, delitto e castigo, no, per riprendere e ricollegarci anche a quel bellissimo libro di Dostoevskij, Delitto e Castigo. Però comunque, invece di dire reato e prigione, comunque delitto e castigo ci stanno bene. Rappresentano appunto il delitto, i reati, i vari tipi di reati, infrazione della legge e dell'ordine, castigo è la pena comminata per questa infrazione. Ma c'è corrispondenza tra delitto e il castigo riferito a quel delitto? Ossia, la pena è moralmente e legalmente fondata e soprattutto adeguata oppure no? Domandona. Teniamola presente, perché questa è una bella domanda per analizzare concretamente quello che passa sotto i nostri occhi, quello che vediamo. Allora, partiamo da un dato che c'è negli Stati Uniti d'America e si sta affermando anche qui da noi. Negli Stati Uniti d'America, sapete tutti, hai il record di persone carcerate, sono 2 milioni e 200 mila le persone detenute, poi ce ne stanno altre, qualche altro di 200-300 mila nelle già quelle piccole. Comunque vediamo, questo è il grosso dei detenuti, 2 milioni e 200 mila. Di queste 2 milioni e 200 mila, oltre 2 milioni, no? Quindi il 90% di questi 2 milioni, che sono persone che stanno nelle carceri da condannati, queste persone condannate, 2 milioni e 200 mila persone condannate negli Stati Uniti d'America, oltre 2 milioni non hanno avuto un regolare processo, sono stati già condannati, hanno la sentenza definitiva. Come? Ma che succede? Che è successo? È successo che in America si è sviluppato via via questo aspetto del patteggiamento e della negoziazione, termini centrali che oggi guidano tutti i percorsi giudiziari in tutto il mondo. Le giurisdizioni sono collegate. Che cosa ti oggi lo fanno già anche in Italia, comincia a vedere in molti film, se sentite molti avvocati, si sta sviluppando nei tribunali. Che cosa succede? Che lo Stato, che sa quanto gli costa un processo, poi appunto smentendo la Gabanelli, i funzionari dello Stato sanno che si chiederanno il rimborso alle persone condannate, però poi non arriverà niente, perché che non c'è niente, che te la niente. E vabbè, costa un sacco di soldi, sono lunghi, quindi fanno allungare i tempi della cosiddetta giustizia, che la parola è sempre più lontana dal concetto di giustizia, e perché il pubblico ministero praticamente dice all'avvocato, quando viene l'avvocato della persona arrestata in procinto di essere accusata di andare verso il processo, dice: guarda che se fai il patteggiamento, cioè ti devi dichiarare colpevole e accetti di negoziare, noi insieme, tu avvocato difensivo e io pubblico ministero, negoziamo il minimo della pena a cui togliamo per la collaborazione che anche se non fai i nomi dei complici, la negoziazione vuol dire che l'imputato partecipa al definire il fatto per il quale verrà condannato, anche se non l'ha fatto, si deve inventare una gabola per dire sì, io c'ero, ho fatto quello, in modo che si riempiono quel verbale, finiscono i giochi, il lavoro della procura, del giudice istruttore, del primo GIP, salta il processo e tra PM e difensori si negozia, si fa un patteggiamento e si negozia la pena, che in genere appunto viene dimezzata, pressoché dimezzata, poi tutti gli abbuoni, appunto il PM accetta che questo collabora, quindi un altro terzo in meno, poi accetta che gli dice anche i meccanismi con cui sono avvenuti, non so se c'è, per esempio, che sono un coltello, una pistola, dove l'ha presa, e altro terzo, quindi alla fine prende pochissimo, non fa il carcere preventivo, esce subito e poi alla fine dei giochi farà il residuo appena rimane. Però il 90% delle persone in carcere non sta in carcere da condannati colpevoli, ma senza processo. Eppure la gran parte di questi sono innocenti, ma questa inchiesta è stata fatta in America sentendo gli avvocati, ma fuori onda, cioè senza mettere il nome, loro dicono soltanto